pipito, vino non ho quel pipito che ti consumi più non vuolo, no, no, no, no, no, che ti consumi più non vuolo. Ma se tu affidarà mergi, ma se tu affidarà mergi, mergi, mergi, fuochi tu ardano, ottini, fuochi tu ardano, ottini, sì, sì, sì, sì, sì, sì, fuochi tu ardano, ottini. Sospirar, non lagrimar, sia pietà amore, chi tardi odior, sia pietà amore, chi tardi odior, piangeri morti, non farò, no, no, no, no, no, no, piangeri morti, non farò, sia carità e la vivrà, sia carità e la vivrà, vivrà, vivrà, fuochi tu piangia. Ottini, fuochi tu piangia, ottini, sì, sì, sì, sì, sì, sì, fuochi tu piangia, ottini. Se avrai il cor fier, stati a veder, altri languir, incenerir, altri languir, incenerir, mal per te mai non morirò, no, no, no, no. Per te mai t'ammonirò. Ma se nel senta cori a pien, ma se nel senta cori a pien, a pien, a pien, fuochi tu morano, dini, fuochi tu morano, dini, sì, sì, sì, sì, sì, sì, fuochi tu morano, dini.